La donna è mobile, qual piuma al vento, mutata certo di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, il fialto e il riso, emerso iero. La donna è mobile, qual piuma al vento, mutata certo. Lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice al pieno, chi su quel cero non li fa amore. La donna è mobile, qual piuma al vento.